li rivedo ancora dietro gli occhi chiusi. Quei visi bianchi amici dagli sguardi illusi. E li proietto ancora sulle mie pareti. Compagni miei perduti nell'oscurità. Camminano coperti come dei soldati. Dentro i giubbotti neri, uomini abbozzati. E sull'asfalto i tacchi suonano il tamburo. Scandendo ormai quel tempo che non torna più. Siamo figli tuoi, madre dei miracoli, di noi che cosa ne fai? Madre metropoli, non ci accarezzi mai. Madre dei miracoli, a me tu non mi avrai. Qualcuno poi nasconde l'ombra in portone. È come se legasse il collo a un aquilone. Ed io che mi risveglio per non farmi male. Accanto sento un uomo ma non so chi è.